140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Teatro Antico, Taormina. Tanto cinema al Festival di Taormina, ma anche un po' di musica. A incontrare i ragazzi per una lezione speciale, Antonello Venditti. Antonello, ci incontriamo in un festival del cinema. Tu sei un kubrickiano che sì, però sì, ha recitato in un film premio Oscar. Guarda, non ho recitato, ho fatto qualcosa che somigliava a me, ho tentato, però diretto da Paolo Sorrentino, che mi sembra una cosa bella. Che cosa ti ha lasciato quella esperienza? Tante cose, l'incontro con Paolo, che è veramente una persona forte nel nostro tempo, e quindi speriamo, peraltro conosciuti prima, per un'intervista che lui mi fece, vabbè, ma questa ormai è storia, è una storiella. E Paolo mi piace perché è il cinema, perché oggi il cinema è questo, è come emozionalità, nel senso che c'ha tutto Paolo, c'ha il grande schermo, la grande musica, la grande fotografia, la grande illusione, il grande soggetto, i grandi dialoghi, i grandi attori e il grande regista. Per cui più di questo non si può. Io ti amerò per sempre. Ciao Jeb. Ciao Antonello. Tu conosci Venditti? Io conosco tutti. È una bella soddisfazione conoscere tanta gente, eh? Una garanzia di felicità. A gente da deluso? Io sono stato deludente. Tu sei l'autore italiano più saccheggiato per i titoli dei film. Poi alla fine ormai mi sono abituato, sai che ti dico? Pure carino. L'importante è che qualcuno si ricordi pure di me, insomma, la fonte, diciamo. Sarei Henry Belafonte io. Qualcuno usa il pezzo come in Notte prima degli esami, il primo, qualcuno no. Sì, insomma, vabbè, ma voglio dire, tutto quello che poi riporta e rimbalza, alla fine va bene. L'importante è che non sia, diciamo, travisata l'opera, ecco, sì, dai, ci può stare. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Qui a Taormina hai incontrato i ragazzi. Tu recentemente hai preso parte a questo documentario molto bello dedicato a Giulio Cesare, che poi è ritornato in Tortuga, perché quel sì, bar era lì. Per forza, quindi pensa che quello è stato l'ulteriore step per farmi scrivere I ragazzi del Tortuga e Tortuga, quindi diciamo il perché dell'album. Ma tornare sul luogo del delitto e alle radici è sempre una cosa positiva, secondo me. Per cui è sempre da lì che si riparte. E quindi io lo considero un bel viaggio dal passato al futuro, passando per il presente, che non è tanto bello per Roma, direi, ma in generale non per l'Italia, neanche per il mondo, neanche per l'Europa. Parlare di Roma adesso è difficile. È molto difficile e la cosa che più mi imbarazza è quello di apparentemente poter fare poco. Invece, secondo me, tutti quanti noi romani, cittadini romani che stiamo a Roma, potremmo fare qualcosa di più. Però non abbiamo diciamo qualcuno che ci raduni, qualcuno che ci chiami, che ci chiede una mano, possiamo fare qualcosa insieme, perché più che altro è questo. E quindi vuol dire che questa città si sta frammentando, perché non ci sono più occasioni per stare insieme a tutti quanti, se non appunto nella musica, nei concerti, nel festival del cinema, ma nella vita che può servire ad altre vite è difficile incontrarsi. Hai detto concerti, come sarà quest'estate con la mente poi al 5 settembre, che sarà un ritorno allo Stadio Olimpico, bellissimo. Quello, guarda, non ci penso, cerco di non pensarci, però sarà bello perché credo che poi alla fine questo spirito comunque di positività che mi porto appresso, poi alla fine lo vorrei comunicare. E mi rendo conto di essere anche a sproposito, che qualche volta è a sproposito, dice, ma come fa questo qui? Vuol dire che è talmente felice e contento. Invece non è che sono felice e contento, che sono un inguaribile sognatore, quindi vedo realtà che non ci sono, le modifico, eccetera. Certo, mi piacerebbe che qualche sogno di una canzone si realizzasse, quindi su Roma sicuramente. Ma quanto può fare un artista? Può fare tanto o niente, se un artista da solo può fare poco, però se tanti artisti insieme a tanti altri, ma gli artisti della vita, cioè tutti quanti, un medico, un ingegnere, un operaio, un avvocato, insieme possiamo fare tanto, cioè possiamo cambiare questa società, o perlomeno un atteggiamento. Tutto sembra ormai asteccati, cioè non ci si parla più, ma non per cercare un'intesa, ci si parla solo per insultarci e dire quello è così, quello è così, quello è così. E così non si va da nessuna parte, veramente. Questo mi dispiace, perché invece ci credo nella possibilità tutti insieme di fare qualcosa. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Antonello Venditti. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.